Rievocazione di famose battaglie. La milizia di North Cork! Esclamò il direttore avvicinandosi a grandi passi al caminetto. Abbiamo sempre vinto! North Cork e ufficiali spagnoli! Dov'è successo questo, Miles? Chiese Ned Lambert con uno sguardo pensoso alla punta delle scarpe. Nell'Ohio! Gridò il direttore. Ah, sì, perbacco! Convenne Ned Lambert. Nell'uscire mormorò a J.J. O'Molloy. Sull'orlo del delirium tremens. Un caso triste. Ohio! Gracchiò il direttore con voce stridula, tenendo il viso scarlatto levato in alto. Mio Ohio! Un cretico perfetto, disse il professore. Lunga, breve e lunga. Oh, Arpeolia! Tirò fuori dalla tasca del panciotto un rocchetto di filo per pulire i denti e, staccatone un pezzo, lo fece destramente vibrare tra due e due dei suoi risonanti denti sporchi. Bing, bang, bang, bang. Mister Bloom, vedendo la via libera, si diresse verso la porta interna. Un momento solo, Mister Crawford, disse. Vorrei telefonare per un'inserzione. Entrò. E l'articolo di fondo di stasera? Chiese il professor McHugh, avvicinandosi al direttore e posandogli fermamente la mano sulla spalla. Andrà benissimo, disse più calmo Miles Crawford. Non preoccupatevi. Olà, Jack! Benissimo. Buongiorno, Miles, disse J.J. O'Molloy, lasciando ricadere i fogli flosci che reggeva sulla collezione. C'è oggi quel caso di truffa del Canada? Il telefono ronzava nell'interno. 28, no, 244, sì. Puntare sul vincente. Lenehan uscì dall'ufficio interno con le veline dello sport. Chi vuole una puntata sicura per la Coppa d'Oro? Sceptre montato da Madden. Buttò le veline sul tavolo. Grida di strilloni scalzi nell'ingresso si avvicinarono rapide e la porta si spalancò. Zitti, disse Lenian. Sento dei sappi. Il professor McHugh attraversò a grandi passi la stanza e afferrò per il colletto il monello che si era fatto piccolo piccolo, mentre gli altri uscivano a rotta di collo dall'ingresso e giù per gli scalini. Le veline si sollevarono frusciando alla corrente d'aria, fecero fluttuare dolcemente azzurri scarabocchi nell'aria e si posarono a terra sotto il tavolo. Non ero io, signore. Quello più grande m'ha spinto, signore. Caccialo fuori e chiudi la porta, disse il direttore. C'è un uragano vero e proprio. Lenian cominciò a raccattare le veline, grugnando nel chinarsi due volte. Aspetto l'edizione straordinaria per le corse, signore, disse lo strillone. È stato Pat Farnell a darmi una spinta, signore. Indicò due facce che sbirciavano dalla porta. Quello là, signore. Fuori dai piedi, disse burbero il professor McHugh. Spinse fuori il ragazzo e chiuse la porta sbattendola. J.J. O'Molloy rivoltava i fogli della collezione con un gran fruscio, mormorando, cercando. Continua pagina 6, colonna 4. Sì, parla Living in Telegraph. Telefonava Mr. Bloom dall'ufficio interno. C'è il padrone? Sì, Telegraph. Dove è andato? Ah, quale asta? Capito. Bene. Lo pescherò lì. Ne segue uno scontro. Il campanello trillò di nuovo mentre posava il ricevitore. Rientrò in fretta e si scontrò con Lenian che si rialzava arrancando con la seconda velina. Pardon, monsieur, disse Lenian, aggrappandosi per un istante a lui con una smorfia. Colpa mia, disse Mr. Bloom, tollerando la sua stretta. S'è fatto male. Ho fretta. Al ginocchio, disse Lenian. Fece una buffa smorfia e gemette, stropicciandosi il ginocchio. Accumulazione degli anni domini. Scusi, disse Mr. Bloom. Andò alla porta e, tenendola socchiusa, si fermò un momento. J.J. O'Molloy voltò con fragore i pesanti fogli. Il suono di due voci acute, un'armonica, echeggiarono nell'ingresso spoglio dagli strilloni accoccolati sugli scalini. Di Wixford, gli arditi noi siamo. Col cuore e la man combattemmo. Bloom esce. Fa una scappata dalle parti di Bachelor's Walk, disse Mr. Bloom, per quell'inserzione di Kiss. Voglio sistemarla. M'han detto che è laggiù, da Dillon. Li guardò in faccia indeciso per un momento. Il direttore, che appoggiato al caminetto aveva chinato la testa sulla mano, a un tratto fece un gesto ampio, stendendo il braccio. Vada, disse. Il mondo è suo. Torno in un batter d'occhio, disse Mr. Bloom, uscendo in fretta. J.J. O'Molloy prese le veline dalla mano di Lenehan e le lesse, soffiando per separarle pian piano, senza commenti. Ce la farà con quell'inserzione, disse il professore, guardando oltre la tendina attraverso gli occhiali cerchiati di nero. Guarda quei perdigiorno che gli van dietro. Fa vedere? Dov'è? Esclamò Lenehan, correndo alla finestra. Corteo per la via. Ambedue sorrisero oltre la tendina alla fila di ragazzini saltabeccanti nella scia di Mr. Bloom, mentre l'ultimo faceva zigzagare bianco nella brezza un beffardo aquilone, una coda di bianchi nodi a farfalla. Guarda quello sgognizzo che gli grida dietro, disse Lenehan, e schianterai da ridere. Oh, mi fa venire male allo stomaco. Fanno il verso ai suoi piedi piatti alla sua camminata. Porta scarpine strette. Chiappa lodole. Cominciò a mazzurcheggiare in rapida caricatura attraverso la stanza, scivolando sui piedi oltre il caminetto fino a J.J. O'Molloy, che mise le veline nelle sue mani accoglienti. E allora? Disse con un sussulto Miles Crawford. Dove sono andati gli altri due? Chi? Disse il professore voltandosi. Sono andati giù all'Oval per un bicchierino. C'è Paddy Hooper e con Jack Hall. Sono venuti ieri sera. Forza allora, disse Miles Crawford. Dov'è il mio cappello? Rientrò con mosse nervose nell'ufficio interno, aprendosi la giacca sul davanti, facendo risuonare le chiavi nella tasca posteriore. Risuonarono poi nell'aria e contro il legno, quando serrò il cassetto della scrivania. È già un po' brillo, disse il professor McGugh a bassa voce. Così pare, disse J.J. O'Molloy, tirando fuori un portasigarette con un mormorio pensoso. Ma non sempre le cose sono come sembrano. Chi ha più fiammiferi? Il calumet della pace. Offrì una sigaretta al professore e ne prese una lui. Lenehan prontamente accese un fiammifero per loro e accese le sigarette l'una dopo l'altra. J.J. O'Molloy riaprì il suo astuccio e offrì. Grazie a voi, disse Lenehan servendosi. Il direttore uscì dall'ufficio interno con la paglietta di traverso sulla fronte. Declamò cantando, puntando severamente il dito sul professor McHugh. Furon fama ed onore a tentarti l'impero a sedurre il tuo cuore. Il professore ghignò, serrando le lunghe labbra. Dunque, fottuto impero romano che non è altro, disse Miles Crawford. Prese una sigaretta dall'astuccio aperto. Lenehan, accendendogliela con svelta grazia, disse: Silenzio per il mio indovinello, nuovo di zecca. Imperium Romanum, disse gentilmente J.J. O'Molloy. Suona più nobile di British o Brixton. La parola fa pensare allo sfrigolio del grasso nel fuoco. Miles Crawford soffiò violentemente la prima buffata verso il soffitto. È così? Disse. Noi siamo il grasso. Voi ed io siamo il grasso nel fuoco. Non abbiamo più speranze di quelle che ha una palla di neve all'inferno. Di Roma la passata grandezza. Aspettate un momento, disse il professor McHugh, alzando due tranquilli artigli. Non ci dobbiamo lasciar trasportare dalle parole, dal suono delle parole. Pensiamo a Roma, imperiale, imperiosa, imperativa. Tese braccia locutorie fuori dei polsini macchiati e sfilacciati, con una pausa. Cos'era la sua civiltà? Vasta, lo concedo, ma volgare. Cloache, fogne. I giudei nel deserto, in cima alle montagne, dissero: Qui star conviene, eleviamo un altare a Geova. Il romano, come l'inglese che ne segue le orme, portò ogni nuovo lido su cui mise piede, sul nostro lido. Non ce lo mise mai, solo la sua ossessione cloacale. Si guardò intorno avvolto nella sua toga e disse: Questo conviene, costruiamo un water closet. Il che di conseguenza essi fecero, disse Lenian, i nostri antichi vecchi antenati, come si legge nel capitolo primo della Sacra Birra, avevano un debole per l'acqua corrente. Erano veri e propri gentiluomini della natura, mormorò Gegeo Molloy. Ma abbiamo anche il diritto romano. E Ponzio Pilato il suo profeta, antifonò il professor McGill. Sapete la storia del presidente della corte dei conti Pals? Chiese Gegeo Molloy. Fu al pranzo reale dell'università. Tutto filava come l'olio. Prima il mio indovinello, disse Lenian. Siete pronti? Mister O'Maddenburg, alto, in un abbondante grigio di tweed e Donegal, entrò dal corridoio. Steven Dedalus, dietro a lui, si levò il cappello entrando. «Entrez, mes enfants!» gridò Lenian. «Scorto un supplicante!» disse melodiosamente Mister O'Maddenburg. «La gioventù, guidata dall'esperienza, visita la notorietà!» «Come va?» disse il direttore, stendendo la mano. «Entri, il suo vecchio è andato via proprio ora!» Lenian disse a tutti. «Silenzio! Quale opera si ascolta sempre a metà? Riflettete, ponderate, escogitate, rispondete.» Steven porse i fogli dattiloscritti indicando il titolo e la firma. «Chi?» chiese il direttore. Pezzettino strappato. «Mister Garrett Deasy», disse Steven. «Quel vecchio tincone», disse il redattore. «Chi l'ha strappato? Era corto di carta?» Su rapida vela di fiamma, dal sud, dove il fulmine scocca, pallido vampiro egli viene, bocca sulla mia bocca. «Buongiorno, Steven», disse il professore, avvicinandosi per sbirciare sopra le loro spalle. «Afta epizootica, sei diventato il bardo bazzicabovi. Gazzarra in un noto ristorante.» «Buongiorno, professore», rispose Steven arrossendo. «La lettera non è mia. Mister Garrett Deasy mi ha chiesto di...» «Oh, lo conosco», disse Miles Crawford, «e conoscevo anche sua moglie, la persona più maledettamente intrattabile che Dio abbia mai creato. Per Dio, lei ce l'aveva l'afta epizootica, senza discussioni. Quella sera che tirò la minestra in faccia al cameriere, allo Star e Garter. Oh! Una donna introdusse il peccato nel mondo. Per Elena, la moglie fuggiasca di Menelao, 10 anni greci. Orurk, principe di Brefni.» «È vedovo?» chiese Steven. «Sì, per il momento», disse Miles Crawford, scorrendo il manoscritto. «Cavalli dell'imperatore, Asburgo. Un irlandese gli salvò la vita sugli spalti di Vienna, non dimenticate. Maximilian Carlo Donnell, Graf von Tyrconnell in Irlanda, mandò là il suo erede a fare del Reunsfeld maresciallo austriaco. Saranno guai laggiù un giorno o l'altro. Anatre selvatiche, sì, tutte le volte. Non lo dimenticate.» «Il punto controverso è vedere se lo abbia dimenticato», disse tranquillamente J.J. O'Molloy, rivoltando un posacarte a ferro di cavallo. «Salvare un principe ti porta solo dei ringraziamenti.» Il professor McGill si voltò verso di lui. «E se così non fosse?» disse. «Vi dirò come fu», cominciò Miles Crawford. «Un giorno, un ungherese, cause perse, in cui si parla di un nobile marchese.» «Fummo sempre fedeli alle cause perse», disse il professore. «Il successo per noi è la morte dell'intelletto e della fantasia. Non fummo mai fedeli ai fortunati. Li serviamo. Io insegno la roboante lingua latina. Parlo la lingua di una razza che ha come espressione culminante della sua mentalità la massima: il tempo è denaro, dominio materiale. Domine, signore, dov'è la spiritualità? Lord Gesù? Lord Salisbury? Un sofà in un club del West End. Invece il greco. Kyrie eleison.» Un sorriso di luce gli illuminò gli occhi nero cerchiati, allungò le sue lunghe labbra. Il greco, ripeté, Kyrios, fulgida parola. Le vocali che il semita e il sassone non conoscono. Kyrie, il fulgore dell'intelletto. Dovrei professare il greco, la lingua dello spirito. Kyrie eleison. Il creatore dei water closed e quello delle cloache non saranno mai signori del nostro spirito. Siamo i sudditi fedeli della cavalleria cattolica d'Europa che sprofondò a Trafalgar e dell'impero dello spirito, non di un imperium che affondò con le flotte ateniesi ad Egospotamo. Sì, affondarono. Pirro, ingannato da un oracolo, fece un ultimo tentativo per salvare le sorti della Grecia. Fedele a una causa persa. Si allontanò da loro a grandi passi, verso la finestra. Uscirono sempre in battaglia, disse grigiamente Mr. O'Maddenberg, ma caddero sempre. Pianse Lenehan con un certo rumore. Per colpa di un mattone in testa nella seconda metà della matinée. Povero, povero, povero Pirro! Poi sussurrò all'orecchio di Steven. La strofetta di Lenehan. C'è un grave pedante, Matthew, che porta grossi occhiali blu, ma poiché ogni cosa vede storta, si può sapere perché mai li porta? Io proprio non capisco. E tu? In lutto per Sallustio, dice Mulligan, a cui è morta bestialmente la madre. Miles Crawford si ficcò i fogli in tasca. Va benissimo, disse. Il resto lo leggerò dopo, va benissimo. Lenehan tese le mani in segno di protesta. Ma il mio indovinello, disse. Quale opera si ascolta sempre a metà? Opera? Rindovinellò la faccia di sfinge di Mr. O'Maddenberg. Lenehan annunciò tutto soddisfatto. La semiramide. Vedete il punto? Semiramide. Eh? Spunzecchiò dolcemente con un dito la milza a Mr. O'Maddenberg. Mr. O'Maddenberg ricadde con grazia sul suo ombrello, fingendo d'essere rimasto senza fiato. Aiuto! Sospirò. Mi sento una forte debolezza. Lenehan, in punta di piedi, gli fece rapidamente un po' di vento con le veline fruscianti. Il professore, ritornando passando davanti alle collezioni, sfiorò con la mano le cravatte sciolte di Steven e di Mr. O'Maddenberg. Parigi, presente e passato, disse. Sembrate dei comunardi. Gente che ha fatto saltare la Bastiglia, disse con calma ironia J.J. O'Molloy. O siete stati voi che zitti zitti avete sparato al luogotenente generale di Finlandia? Avete l'aria di essere stati voi, il generale Bobrikov. Ci si stava solo pensando, disse Steven. Di tutto un po'. Tutti i doni, disse Miles Crawford. Il diritto, i classici, le corse, interruppe Lenehan. La letteratura, il giornalismo. Se Blum fosse qui, disse il professore, la nobile arte dell'inserzione. E la signora Blum, aggiunse Mr. O'Maddenberg, la musa vocale, la favorita numero uno di Dublino. Lenehan tossì forte. disse pianissimo. Oh, una frescata d'aria bocchesca. Ho preso un raffreddore nel parco. Il cancello era aperto. Lo può fare. Il direttore posò una mano nervosa sulla spalla di Steven. Voglio che lei scriva qualcosa per me, disse. Qualcosa che abbia del mordente. Lo può fare. Le si legge in faccia, nel lessico della giovinezza. Legge in faccia, legge negli occhi. Piccolo macchinatore fannullone. Afta epizootica, urlò il direttore con tono aggressivo e sprezzante. Gran comizio nazionalista Boris in ossori, tutte balle, per intimidire la gente, dia loro qualcosa che abbia del mordente, ci metta tutti noi dentro e al diavolo, padre, figlio e spirito santo e Jess McCarthy. Tutti possiamo fornire pascolo mentale, disse Mr. O'Maddenberg. Steven alzò gli occhi allo sguardo audace e noncurante. Lo vuole per la sua ganga. disse J.J. O'Molloy.